l'assistente. Sì, hai fatto allucinare il baribacco. Sì. Andiamo a provare baracca. Non è grave. Fuci, fai 2 anni in più, ancora rimaniamo un bel baneccaccio, tu baffuti a me. E io sono sempre in ascolto, perché devo stare attento alle male lingue, me devo difendere, capito? Ciao, buonasera comunque. Vivo poco a pegare in culo, Fanny, capito? Quindi bisogna stare un bel attenti. Hai compreso? Vivo poco a pegare in culo, bisogna stare un bel attenti sempre. Io sono sempre in agguato. Ah, è per quello, bla. Ma chi ti servisce? È tanto lontano che ti viene il cuore. Allora, ci fosse qualche nuovo bacio di putti, ma non mi putti ancora. Ancora, Nani, e mangia pane e cacio, te canti. Vabbò, ciao, sono in ascolto, sto facendo cosa. Ehi. E l'altra prova di chicco, ecco, dove sei a casa di Gavinuccio? Ma dove tu sei a ma l'effetto cosa, se vuoi aumentare o diminuire, è provato. Ah, che tu modificava allora, c'è regolato così. Ma allora non l'hai modificato, mentre lo mio uscì. Il mio c'ha la potenza regolabile da 0 a 30 watt, poi c'ha l'eco regolabile, lo puoi anche escludere, alla 48 sto parlando, per farti capire, Vannino. Poi c'ha il beep e poi c'ha il doppio modulatore incorporato. Ammalata, cosa dicessi, vanno bene, ma pigliano i golpi a tutti i bianchi, a tutti i battenti, a tutti i battenti, è un certo come razza. Sono diventato un pochettino più selettivo, allora sì. Ma fate noi baracchino la buoni a casa, io non attacco a casa, io ce l'avevo in macchina, ce l'ho conservato. Non è baracchino da mettere a casa sicuramente, senza ombra di dubbio. Sì, infatti, bonito. Quanto ti sta arrivando, Cla? Dimmi lo segnale di chicco un attimo. Santiago, 8 e mezzo. Oh, 8 e mezzo, non strano, già. Vabbè. Invece l'altra volta era 9 e mezzo, là. Un po' più. Sì, spinge un po' di più, va. Ma questa è una modulazione bella, però. Immaginate, le cose che vuoi vedere. Beh, non fai bisogno di melodie. Dopo di 40 anni che idratto, un bel subroppio di comprendino. Mi basta solo il microfono, ma è so cosa stai usando, quindi. Tu sai, chi è che? No, vediamo un ruito. Vabbò. Così è qua. Un'altra cosa. Beh, quando io dico che non ci riesco a parlare con i baracchini, voi dite che non è possibile. Io senza questa, infatti una me l'ho lasciata. Ho venduto tutto, ma una me l'ho lasciata, questo è il 430 e modulo con questo. Baracchini, li lascio giocare i bizzini, io ho tratto guida e buh, non me la fotti nulla. Ma sì, vabbè, io ce li ho, questo qua, bizzini, mi dà. Ma se si acciappo li vende un blu. Sono con il 2006 e più vedo anche mi piace, è un po' questo, ormai la già conta, capito? Siamo comuni, è tutto il nostro mondo. No, ma non c'è cosa, io ho un bei baracchini selettivi, anche quelli vintage sono molto selettivi, però sempre baracchini so. Qualcuno li chiama apparati, io apparati chiamo gli HF, per me chi si sono baracchini, tutti sono baracchini, capito? E non mi trovo, basta che ci sia qualcuno nelle vicinanze, mi sprattera, io non sono abituato a, capito? Quindi modulo con questo. No, ma gli ho venduto tutto, forse l'hai compreso, ma gli ho venduto tutto. Tutto, 3 HF, 4 B-banda base, VU, microfono e tutto. Mi ho tenuto il vintage, il 430 è un amplificatore, basta. Hai capito cosa ti ho detto? Oh, scusa, a casa, mi sono notato, mi hanno chiamato solo una cosa. Ehi, ho detto, se hai capito quello che ti ho detto. Ehi, grazie, ma ti ho detto, a me lo stesso, i baracchini sono baracchini e le radio sono radio, non quindi... Vabbè, comunque, c'è con questa cosa. Così è, allora, vabbè. Ma anche lui confonde la lana con la setta, allora ogni tanto bisogna ricordarglielo che i baracchini si chiamano baracchini, gli HF si chiamano apparati. Ti ricordo che un baracchino costa 20 euro, tu non ti dico. Ma sono perdere, va, sono un'altra cosa. Anche se è un 430, anche con 140 che sono partiti. Ma lo stadio di ricezione o di traduzione non ce n'è. Ma io ho 440 con tutti i filtri, anche quello della M, il mio è completo, anche quello che ho dato 440 era completo, aveva tutti i filtri, tutti i schierafonemi, tutto ci avevo, no, io li avevo completate tutte le radio, no, 140 me l'ho venduto, non ne ho più, anche quello è uscito, non mi piace. Ho tenuto 430 che è molto selettivo, molto ben, meno problemi del 440, è superiore al 140 e al 680, su quello non c'è dubbio. Allora, io ho detto spesso, ce l'avevo, siamo su tutti i finali, devo comprarli i finali, no? Ho comprato un corsario nuovo, ma nuovo me, nuovo, però vedi, fiammante, manco 70 euro ho comprato. Quindi invece con i finali c'era questo affare e l'ho preso subito al volo. Ma tutti lo si vede l'avvento, ragazzi, luci, infatti mi ha detto non ha mai lavorato sulla funzione. Ma era giusto per non tenerlo buttato, almeno così lo uso il 27, lo uso il 28, lo uso, vabbè, quando è lo uso. Ma non voglio attaccare l'altro, uso questo, capito? Allora va bene comunque, non è male. Cos'è quello? 68 o 14? 14, ma va bene, va benissimo. Va molto bene. Sì, ne usiamo in appunto. Aspetta, vi abbasso il vermesso. Fatto questo vermesso. È così, vabbè comunque. Ma va bene, va meglio del baracchino. Sì, senza un po' di dubbio. Alla grande. Quindi hai preso tutto il blocco, quello praticamente dalla parte che lo apri al libro, va? Sì, lo stadio finale, l'interno tutto, io sono il finale, per i finali, tutto, anche la ventola completa mi ha dato. Ma è una cazzata, cioè, te l'ho preso perché non ho fatto. Non è che mi interessava, solo che avevo così fermo e senza, cioè per 70 euro, gli trovo un paio di bocca. Tutto lì, quindi l'ho rimesso a posto, l'ho salutato, l'ho accoppiato e basta, ho controllato le, diciamo, le correnti del via per non caricare troppo il prefinale, però va bene, perfetto, non ha problemi di nulla. Vanno bene, no, lì ci so lavorare di più io che gli altri, quello avevo imparato subito a lavorarci, poi quello è facile perché stacchi tutta quella parte lì, è tutto a spinette, non devi saldare niente, ti fai, ti correggi le tensioni una volta che lo piazzi ed è tutto a posto. Sì. Ne ho cambiato una da poco di ventola io alla 140. Ne ho cambiato una da poco di ventola, ce l'avevo ancora imbustata, capito? Non girava, c'era fasciata, si buona ne ha tuccata e quindi gliel'ho sostituita. Va bene, va bene. Ma lì è Franco a Sassari, quanti mai c'è a Sassari, rivende Santiago di Rinconocchi? Lui è a Sassari, non è a Sassari, è un altro mondo. No, non c'è niente di Sassari. Sì, io ce l'ho un'altra di Riccardo, una di Riccardo comunque di Venta, che mi ha avanzato, perché questo mi ha dato tutto, completo, quindi ho anche un'altra bella. Esatto, è un figlio, non dare. Lei ce l'aveva, beh. No, era già sempre inserito questo posto. E solo le due alfa c'è gente, ma me l'ha fottuto. Sì, ma è la rottura di scatole perché è in orizzontale la ventola, capito? Mentre gli altri 430 e 440 sono in verticale, sono attaccate diversamente. Però quella già viene bene. Una volta che tu gli lasse dal proprio posizionato già viene bene. C'è un capitolo Franco, il cazzo suo guscio imbecille, ha detto che è a Sassari, ma non è a Sassari. Già lo so, conosco anche quella radio che sta usando, conosco tutto. Non c'è problema. Va bene. Ok. No, io ho venduto tutto la mia. Sto aspettando adesso Andrea, appena si libera dobbiamo togliere anche il sistema, il traliccetto, l'altra elemento è già in terra, quella va solo smontata perché i bracci sono ancora interi, poi tutta messa dentro le scatole e fuori dalle balle, tutto fuori dalle balle, ho trovato tutto, ho tenuto solo l'amplificatore che l'hai mandato tu, e i due RM Italy, e boh, il resto ho fatto tutto, e questa qua, 4.30. Tanto che non è uso della frutta, per la dieta, ma è che nel testo c'è un rischio, io posso, se trovo che è un prezzo interessante, che non lo so, ho detto il 507, che è questo lineare tra B, ZG e il Connex, capito? No, io baracchini no, non ero perché sono vintage, sono base, me li tengo, sono dentro l'armadio, non si sa mai che mi possa servire. No, la parte amatoriale ho dato, ho tolto, diciamo, tutto, dato, venduto, non c'ho manco niente in voi, niente, nulla, nulla, tutto fuori, via, tanto non mi tratti, non parlo con nessuno, e va bene così. Non so come così, se ne vanno i miei patenti, figurati intanto, poi sui miei servi. Vabbè, no, io già li uso un tanto, non è un problema. Tanto che ho Puglia, esco e faccio. Ma che quella manetta non lo faccio, la bevo. No, no, ne avevo 4 base, 820H, 275H, 780, 910H, e a voglia radio, punta. Adesso c'è un veicolare, la Linco, il 590, mi sembra sia quella fronte indestruibile, che è quello che usavo in macchina. E mi ho lasciato quello, non si sa mai che mi venga la voglia di riattaccare l'antenna, ma se mi viene gana prima, mi può lasciare dove viene la gana, non vengo ancora la 510 più. Ma ogni tanto vai a curva, cappello. Oh, vabbè. Deia, ho già bevuto, era da te, non ti preoccupare, lo segnale lo do io. Ecco. Cazzo, attacchi un legnare e alza nelle stazionarie. Oh, Gavinù, il sistema VG è una grandissima stronzata. I watt sono watt, la VG è la VG. È un picco di modulazione, ma non pensare che una VG da 6 watt, perché tu lo vedi che sale a 12, sono 12. Quello è un picco di modulazione, è una stronzata. I watt se sono 8, che la radio ne dà 8, 8 te ne dà normale e 8 te ne dà in AVG, P e P, non cambia niente. Io sento a volte, modulati me ne dà 190, 200, ma di cosa si fa vedendo? Ma cosa si fa vedendo? Se i watt sono 100, 100 sono, cambia il picco di modulazione, ma sempre 100 sono, cioè li vedi che vanno più avanti, che vengono modulati da prima, ok, oscillano, ma i watt sempre quelli sono, è una stronzata, a volte si dicono un sacco di coglionate, cazzo, i watt sono 8, però in AVG modulati sono 20, ma che coglionate siamo dicendo, si sotto, sotto, è il picco di modulazione che tu vedi, non sono i watt che stanno salendo, è la tua voce, il picco di modulazione. Cazzo, di tutti rigorosi, ne intende, ragazzi. Boh, gira, un rosmetro in AVG ti giamba arrivati da 8 a 20. Sì, Gavino, ma non sto dicendo a te che si sentono un sacco di fesserie a volte. Se i watt sono 8, 8 sono sempre. Quello che tu vedi in PEP è il picco di modulazione, ma non è che ti sta aumentando i watt. Sono i watt modulati a PEP, a picco di modulazione. Cazzo, non riesco a comprendere che si cazzate li intendo a voce, veramente allucinante. Oi, oi, oi, vabbè, sì, ma guarda che io ce l'ho la 48 ed è diverso da quello lì, capito? Perché l'ho comprato già fatto e ti dico. dici, no? No, perché sennò devi cambiare i finali, capito? Cambiare i finali, perché il mio c'è la regolazione da 3 watt, 2 watt e mezzo fino a 30 watt. Allora sì che cambia la potenza, ma è regolabile. Ma quando tu hai 8 zoe, anche se tu li vedi nel wattmetro in P e P che vedi che sale di più, sempre 8 zoe, non è che è da 8 a 16, non è così che funziona. Quello è il picco di modulazione, ma la potenza è sempre uguale. Io come sto, Sant'Antonio mio, sentendo il buco invece di gas. Brecco, ma chi l'ha fatto quell'apparato? Mi parla con Gavinuccio, spiega le due cose dell'Alan 48, che a volte sento stronzate. Gigi Vulca, ciao, buonasera. Mi Gavinuccio, fai le domande a Gigi che ti sa rispondere, io non ne comprendo nulla. Ascolta a me Gavinuccio, ma Gavinuccio di Signori, giusto, ho sbagliato sto, ma è quello che ho visto io il baracchino. Chi te lo sei, lo 48 lo Gones, lo sai? Ma chi l'ha fatto? Tony? O un'altra persona? Sabatino? E allora hai fatto bene. Hai fatto bene Claudio, ce l'ha fatto Sabatino, è fatto benissimo, che io di Sabatino ne ho tante qua. E Sabatino li fa bene, e ti dico che quel baracchino, se lo vedo io, non solo, quello tocca anche 20 watt. Se l'ha fatto Sabatino, quell'apparato lì. Sì, ma come li tocca 8 watt Gigi? Con la regolazione della potenza 20 watt li può toccare, ma quella radio c'ha 8 watt. È inutile che la gente continui a dire in AVG, in PP me ne sta dando 20, ma di cosa siamo provvedendi? Se ti dà 8 watt col wattmetro e poi sale a 20 quando moduli, quelli non sono i watt che salgono, è il picco di modulazione che sale, capito? È il picco di modulazione che sale, i watt sono sempre uguali. Cosa stiamo dicendo? Allora, se tu li regoli col wattmetro da 0 a 20 watt e poi parli è un'altra cosa, ma se quella radio non sale più di 8 watt e quando parli non si muovi, vuol dire che non è fatta bene. Io non l'ho visto, io adesso mi sembra strano, Ascolta Claudio, Sabatino io ci metto la mano nel fuoco tranquillamente, che lo conosco di persona e so i lavori che fa, ed è fa Massimiliano, ne ha fatto a tanti. E ti dico che quelli che tu hai sempre visto miei li ha fatti lui, anche quello che c'ha già nel doppio ruolo l'ha fatto lui, Sabatino, 48. E quello che adopero io tante volte qua l'ha fatto Sabatino, c'è il doppio modulatore, c'è tutto. Allora, ti spiego, intanto quelle radio non devono andare con 8 watt, ma vanno con 2 watt di portante bianca. 2 watt di portante bianca. E ci puoi attaccare quello che vuoi. Lineare, e per pilotare bene un lineare. Poi c'ha i picchi, i cose su, quando moduli che sale, può salire anche 11 watt, una cosa del genere. Poi se lo metti in P e P, ci sale anche a 20-25 di picchi. Però fatto in quel modo che sto dicendo io, 48 che ho io, tu lo metti controllare i watt normale, non in P e P, da 2 watt sale anche a 15 sale. Poi lo metti in PFP e sale ancora di più i picchi, però, hai capito? Perché hanno doppio modulatore, queste cose così, che ti dà questa spinta in più quando moduli, hai capito? Io ti ho capito, ma tu lo devi far capire a chi dice coglionati, a chi dice che in PFP aumenta la potenza. Non esiste una cosa del genere, sono picchi di modulazione. La potenza se è 10 watt, 10 watt sta erogando la radio. Il picco di modulazione in PFP è un'altra cosa. Ok, mentre molta gente pensa che, cazzo, così sto via, adesso sono a 100 watt, aspetta che metto in PP, 150, 200, ma cosa si risente? Sono i picchi, stai dicendo giusto Claudio, sono i picchi di modulazione quelli lì, hai capito? Però ci sono radio che a te ti dà 8 watt di portante, tu giri, vai da 0 e vai a 80, lo metti in PEP ma 8 watt, da 8 watt non si muove, quello non è fatto bene, se non si muove in PEP non c'ha una buona spinta. Invece se la radio in PP si muove, quando moduli si muove, va e tende a salire i picchi di modulazione, allora è positiva, è buona, capito? Però se non si muove l'ago e rimane sempre a 8 watt in PP, vuol dire che non c'ha la spinta che deve avere, capito? Sì, sono d'accordo con te, la spinta, il picco di modulazione, ma c'è gente che questo picco di modulazione lo chiama potenza, capito? Ma è mai possibile che uno strumento ti possa variare la potenza? Ma le cose prossimo fa vedendi. Sono due cose completamente diverse, completamente diverse. C'è molta gente che sta prendendo cazzi per fischi di treno, il PEP è il picco di modulazione, ok, che serve appunto per vedere se una radio sta erogando quello, la modulazione va bene, ma non è che i watt cambiano da 8 salgono a 20, no, i watt devono essere 20 per essere 20, ok? Deve avere la regolazione dei watt, non un PEP non vai a stare a 20 watt, non prendo l'idea. Sì, Claudio, sì, stai dicendo giusto, non so, però quelle radio lavorano con 2 watt, capito? Lavorano con 2 watt, non con 8 watt, lavora bene come radio 2 watt, ma tu lo sai, l'hai avuto, cavolo, il 48 modificato, sai come funziona, e con questi 2 watt spinge bene il lineare, lo fa girare bene, capito? No, poi sono giustamente sono quelli sono i picchi, quando te lo danno fanno vedere che dice mi guarda, quelli miei c'è la regolazione dei watt, fa da 2 a massimo 10 di portante muta, capito? Massimo 10 di portante muta tale. Poi se lo metti a modulare, giustamente lo metti in PP, salgono 20, 25, 27, quasi 30, arriva col 48 mio. Anche quello che avevi tu di Lumacone arrivava quasi 27. Di picco però, di picco, non di watt, di picco di modulazione. Stiamo parlando di picco di modulazione. Quando tu fanno le prove ti fanno vedere che c'ha questi picchi di modulazione. Se un baracchino non è buono, questi picchi non ce l'ha neanche, rimane a 8 watt o 10 quello che è, non sale più di quello lì, capito? Quando c'ha i picchi, allora vuol dire che è buono, che salgono i picchi, ma non sono i watt, attenzione, sono picchi di modulazione, quello che stai dicendo tu, che stai spiegando a Gavinuccio, è la stessa cosa, capito? Ma mi pare che Gavinuccio non ha capito 8 watt, così è Gavinuccio? Non so, comunque io sento a volte queste regolazioni in PEP, a me non capisco, vabbè, comunque, se i watt sono 8, 8 sono, non è che da 8 trattani a 30, che l'hai messo in PEP, cosa vuol dire? Sempre 8 sono picchi di modulazione, ma non sono erogati in potenza, ok, quella è un'altra cosa, non confondiamo la lana con la setta. Allora, aspetta, adesso ti spiego, no? Tu abbiamo parlato l'altro giorno del 48, quando te l'ho detto di girare solamente quello. Se tu non giravi quello lì appena, non gli giravi al massimo quello lì, cosa succedeva? Tu lo provevi e ti dava 4 watt, ma da quei 4 watt non ti dava neanche i picchi di PEP, non saliva e rimaneva sempre a 4 watt. Poi, giustamente, te li dà qualcosa in più di picchi però, capito? Ti dà picchi di modulazione, però per farlo salire di watti c'è da toccare ancora altre due cose, capito? E ecco che ti dà quei picchi che arriva anche a 11, qualcuno ci arriva a 12, qualcuno arriva a 8, hai capito? Però i picchi, non watti, picchi di modulazione, però se lo lasciavi normale come lo lasciavi come era in origine, non salivano quei picchi e rimaneva fermo a 4 e sta. No, non è così. Ascolta, tu ti ricordi mi hai portato il 48, che io non so se a te te l'ha controllato la stessa persona, te aveva controllato il 48, che lo volevi mandare indietro e poi te l'ho controllato io. Ti ricordi quel particolare, te lo ricordi Gavino? Te l'ho controllato io col mio Rosmet, quello che c'ho io. E la cosa era differente, ti ricordi? No, io voglio capire, ti ricordi che te l'ha provato l'altra volta e ti ha detto che non saliva di watt, non andava nelle... mi ricordo non saliva neanche a 5 watt, 5-6 watt, ti ricordi quel particolare? Me l'hai portato, l'abbiamo attaccato, te l'ho fatto vedere davanti a me, i picchi come salivano e saliva, non mi ricordo a quanto era, ma superava anche i 20, ti ricordi? Allora, va bene così. Io so come lavora Sabattino, non è voglio adesso discorso, però siccome ci riesco solo, io senza fargli nulla ci riesco io a farlo salire, capito? Quello lì a farlo salire a 18 watt, ci riesco pure io, gli tolgo un integrato e già arriva a 18 watt, quello lì, capito? Però te l'ha già fatto lui Sabattino quel lavoro lì, tranquillo al 100%. Prima cosa invece, allora di origine esce con 4 watt. E con esprimere sì, quindi non esce di più, perché i finali almeno le caratteristiche sono quelle, ne ha due comunque. Ah, ne ha due? Ah, quella ha due finali? No, quello arriva anche a 30 watt. quello fa 25 di portante bianca, lo sai tu, fa 25 di portante bianca, quello normale di San Valentino, tu prendi da dentro, tu lo porti, tu lo regoli a 25 di portante bianca, quello lì. Allora, il mio, no, più di 4 watt non li dà. Anche se dico che il trim del ghiaccio della potenza va sempre 4 watt, non sale di più, non fate, non capito perché. No, aspetta, non va toccato il trim del Fiat, quello non si va toccato, va toccato lì il V13, il V13 è quello dei vatti che c'ha dentro, c'ha il V13, quello devi toccare, il V13, e quello te lo tu lo porti da, scende anche sotto di 4 e scende quasi a 0 e lo giri e sei con due finali che c'ha 2,19,69, c'ha il finale da 19,69 che sono da 10 watt l'uno, quelli lì si fa il 22 te deve fare per forza al massimo di portante bianca, al massimo, capito? Quello te lo fa. Se poi ne togli, lo vedete lo spinotto lì, quel TR32, e togli quello lì, fai un porticello, quello va a impazzire, ci sale infatti a tutto andare. No, aspetta, dammi 30 secondi che prendo la radio in mano. E ti dà una radio che è fastidiosa anche sentirla dopo. Allora, vediamo intanto che V13 non l'avevo visto. E non lo vedo, allora, sì, allora io non ho col schema, che è simile ma non è uguale, perché questo lo schema elettrico non lo trovo, lo schema blu. Ma vediamo, V12. Sto cercando il V13, adesso lo cerco. E a fianco al V12, V14, in fondo, alla parte di sotto, dietro, lo vedi, quando buona parte in alto lo vedi. Lo devi girare quello lì in anti-orario, mettiti il rosmetro, schiacci la portante e quando stai girando vedi l'ago del rosmetro come sale. Allora, le V3 c'ha MPVR, va bene, io non ne ho questo adesso in mano, è un altro che è rosso. Non esce infatti in AM, non esce. Esce in FM in banda laterale, infatti sto cercando se riesco a recuperarlo. Va bene, V13, però pronto. Dimmi invece qual era l'altra cosa che bisogna punteggiare. Allora, quello si trova vicino dove entra il microfono, capito? Lì c'è un integrato a tre piedini, RV32. È un coso nero a tre piedini, quello devi stare attento, quello ti dà una radio, proprio una radio impazzisce, cambia proprio forte, ti dà una radio forte, capito? Il V13 sono i watt che tu puoi regolare, hai capito? Il V13 tu girando te lo porti a quanto li vuoi tu quei watt lì, ma dovrebbe, se a due finali, del tuo a due finali arriva fino a 22, eppure qualcuno 25, se è un finale solo arriva intorno ai 10-12 watt, dipende dal palazzo, di portante bianca che si è da modulare. Allora, no, questo che ho io è a due finali, lo sto già dicendo. Allora, quindi se mi dici che è nella tripedia, quindi è un transistor per forza, però come hai detto tu, devi escludere allora. Però è strano, vicino lì ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, quindi cosa sto parlando, magari un momento così me lo fai vedere quale, oppure mi dici la sigla, poi lo indiziso, perché ce ne sono 4 che sono incollati assieme con il marchio e poi ce n'è uno singolo che è spostato, adesso non riesco a vederlo, ma comunque era per capire se ti ricordi la sigla. Tre piedini, nero, transito. È TR32, però non toccare quello lì. Tu ricorda, il VR12 sono i watt USB, attenzione, il 12 aumenta i watt in USB, capito? Invece il V13 sarà potenza e watt in AM, in AM, in FM è la stessa cosa. Invece il VR14 in quel baracchino lì, girando in anticoso, ti aumenta la radio, ti dà più radio, hai capito? Il VR14 segnatelo da una parte e così lo sai. No, quello va bene, la radio va tutto bene, non mi interessa spingerla troppo perché poi è un disastro. Quella già è già abbastanza bene così. Sì, allora, qui infatti vedo il TR 33, che il TR significa Francisco, poi Guabella, che però ci vorrebbe lo schema, ho paura che qualcuno che l'ha già fatto, che si ricorda qual è, e che modifica bisogna fare, perché tieni conto che uno è l'alimentazione, l'altro è ingresso e uscita di, secondo dici tu, sarà sull'alimentazione. 32, non 33, 32 ti ho detto, il TR32, non sbagliare. Sì, ti ho detto, io questo che vedo da qui è il TR33, quindi a fianco dove è messo, ci sono su quattro transito, capito? Però sono incollati qua e sono incollati anche nell'altro che ho, quindi bisogna riscaldarli, staccarli, e poi però ponteggiarli, vabbè, bisognerebbe chiudere e poi fare la prova. Io te lo sto dicendo perché l'ho già fatta tre volte, e lo so. E comunque ti ho detto, infatti sono il V13, tu l'hai visto il V13, quelli sono i fatti, che puoi girare da dentro e regolare, aumentare, cioè abbassare. Ma io mi ricordo di averlo toccato il V13, perché in effetti c'è anche scritto che l'AMVR, capito, però mi pare che non li dà fatto. Eppure il finale stavano tutte e due, quindi strano, potrebbe avere altro, qualche visto che sono radio da tasse, quindi immaginati, magari potrebbe avere anche qualche condensatore un po' capito scarico, quindi non permette di, insomma, di alimentarlo bene o che comunque non esce, però avendo lo schema basta misurare le tensioni sul finale, insomma, però non ho niente, quindi è un problema. Va bene, comunque, così, tutti a modificare. No, modificare, comunque si può fare. Allora, quelli c'ha 1969, c'ha due, 1969, quel baracchino, ne ha due finali, 1969, che sono rari a trovarle pure, perché non le trovi, le trovi sì, ma sono di quelle dei cinesi, no, dura 2D, 3D, puoi avere anche un coso in piedi, sai, uno di quei finali lì, e allora ecco che non ti dà più i fatti che deve dare. Prec. Sì, però se in piedi, se lo sai da dove te ne accorgi, tu premi la portante senza parlare e vedi che il finale piano piano se ne scende, quello è quando sono in piedi, ma non è in piedi, comunque, vabbè, se sto brecca. Capito, quando in piedi da tu metti il portante, invece rimane in stabile e tiene a scendere, così te ne accorgi altri che è in piedi. No, questo no, io la volevo portare fatta una decina di volte, anche per usare questo 507, perché così mi dà 140 watt, sono 4 watt, ma danno una di più, vabbè, una decina dovrebbe, insomma, spingere un po' di più. Allora, giusto per provare, vabbè, comunque, non è grave. Adesso li provo. È positivo, va? Mandiamo il break, va? E buonasera a tutti, Gianni Doppio Rum. Ciao Gian, buonasera. Luigi, mi hai sentito, dai. Non so chi ci sia, ho acceso in questo momento, ho sentito a Vannino e a te, e basta. Non so se ci sia altra gente, vieni avanti, poi mi illuminerai. C'è Claudio, c'è Gavinuccio da Sennori, c'è... che è Vannino quello che stavo parlando io, giusto? Era Vannino, sbagliatemi. Vannino, sì. Vabbè, avanti Claudio, buonasera. Non c'è neanche capito. Avanti l'amico di Sennori. Sono Vicenzo. Sì, stai uscendo, ma non c'è più nessuno. Che fuggiti sono. Sono entrato e ho pulito la frequenza. È positivo, dai. No, c'è la Vannino, c'è la certo. No, perché quelle a due finali è come l'87... L'8001 a due finali fanno 25, l'87 ce l'avevo, me l'aveva fatto comprare Claudio da non mi ricordo il nome, che non l'ho da tanto, non mi ricordo il nome di quello lì. E dava 25 watt così, però c'era il pomello a regolarli. E dava 25 watt di portante bianca senza modulare, saliva da 0 a 25. A due finali 1969 sì. Scusa Gigi, ciao Gianni. No, rimango in ascolto Gigi, sono entrato solo per. Stavo parlando con Vannino, rimango in ascolto. Comunque, togliamoci da dalla testa questo PEP, non mi voglio ben intendere i sonsardi, ok? Il PEP ti dà il picco di modulazione, ma non ti sta aumentando la potenza della radio, perché sto sentendo stronzate. La mia radio da 8 watt e il PEP me ne dà 20, cosa vuol dire te ne dà 20? Sempre oltre ciò. I watt erogati sono 8, il PEP è il picco di modulazione, non sono i watt, non è la potenza che sta salendo, è il PEP, il picco di modulazione della voce, la potenza della voce, non sono i watt. Oh, cranio, scusate, te lo ricordi quando fanno le prove, ti dice sto uscendo in PEP, non sai cos'è, capito, non è che non può perdere, è che non basta può perdere, il PEP è l'effettivo della radio, capito? Cioè nel senso che ha 10 watt, PEP è così. Poi ha la quinta modulazione, quelle radio lì sono fatte così. Cioè, è come quella che ho io. Ti dà 4 watt sì, però tu non ti dà la quinta della modulazione. Ma, cioè, il finale oscilla molto meglio di avere la portante fissa bloccata e quando vai in saturazione finale che ti dà, capito, quando tu lo tiri. Oltre non va, non vedrò Twitter che si ferma lì e rimane lì. Invece questi sono fatti in modo diverso, sono diciamo appena più bassi con le modifiche, sono molto più basse, ad esempio anche se siamo appena alla 10 watt, loro portano a 5. Poi quando lui modula, no, si vede questa spinta di modulazione che arriva a 10 watt, però sono tutti in linea, non è che te la accendi, sempre questi sono. Ma io voglio giocare esempi, e ce lo stai spiegando a me, che ne ho avuto 6 di baracchini modificati. E già lo so che funziona così, ma io sento qualcuno, non so se mi spiego, dire che mi aspetta, sto controllando il watt, metto, e così me ne da 8, se metto il PEP, alzo 20 watt, ma cosa ci disegni? Quello è il picco di modulazione, nel senso la spinta che sta dando la radio, ma non è che ti sta dando 20 watt, sempre 8 ciò, non c'è valuta. E infatti P e P non si devono misurare in AM, perché il picco di modulazione non sono in watt. Ha ragione Claudio. Gavio, quello ciao Natali, quello devi dire a Sabattino che te l'ha fatto lui. Io radio di Sabattino ne ho avuto e il mio Alan 48 aveva la potenza regolabile, che è una cosa, ok? Tirare un trimmer è un'altra cosa. Il mio aveva i finali cambiati con la potenza regolabile e andava da 2 watt e mezzo sino a 30 watt. 30 watt li regolavo io però. Ok, 30 watt li regolavo io. Noti da 2 watt a 30 P e P, cosa cazzo diciamo di esempio, ma non diciamo stronzate per favore, per la fretta. Poi non si misura mai in P e P, in AM, classe. Non si può misurare in AM, fai forza a chi si sono i picchi di modulazione che dati. Ma certo, la spinta, no? È la spinta. Sono le prove che fanno loro, lo mettono in P e P e ti fanno vedere la spinta della radio. Soprattutto col doppio modulatore, quando c'è la modifica ti fanno vedere la spinta, ma i watt sono quelli, c'è la radio dati 10 watt, ok, non è che tu mi attacchi il watt, metto, lo metti in PEP e ti riporta a 20, e lo c'è un lineare, ma io per favore cazzo dai, stiamo attenti a quello che diciamo, che sennò facciamo ridere a volte. Va bene, rimani in ascolto, dai, ciao Vannino, ciao Gavino, ci sentiamo alle prossime, ciao anche a Gianni, ciao a Gigi Vulcano. E ciao a te Natalino, vai, rimango in ascolto, ci sentiamo. E anch'io saluto tutti e rimango in ascolto anch'io, non mi va in questo periodo di modulare. Per il meglio Natalino, c'è un po' di movimento strano in giro, vai. Ciao ciao ciao. E ciao ciao. Aia, ciao. Ciao, fra, ciao Natalino. Ciao Gigi, ciao. Oh Gavino. Ma quello è il Connet, quello ha due finali stesso o un finale solo? Davino ci stai? Ah sì, che era provando in cosa, sì. Ho detto, quello ha due finali è quello lì. Ascolta a me, quello è apparati, ascoltami benissimo. Allora, se ha due finali, quello lì, se tu lo porti a manettone, arriva anche 20, quasi a 25, a 25 watt, l'importante è piano. Solo con le modifiche che si fanno e le cose, e spinge perché spinge la radio, se lo abbassano, se tu lo guardi effettivamente non può avere 8 watt, dovrà avere molto di meno, perché 8 watt sono già troppi, capito? 8 watt di portante bianca sono troppi, massimo esagerando deve avere 4 watt, se no 3 e mezzo, 2 come le porto io. non se, anche se c'è la regolazione dei watt, che non so se ce l'ha quello lì la regolazione dei watt, o se ce l'ha dall'interno, dal V13, non serve alzare la regolazione dei watt, quello lavora meglio con 2 watt, con 4 watt, che con 8 watt è portante bianca, hai capito? E va bene di radio e di tutto. Capito, non è che come dici tu è stato girato, no, quello se tu giri sale il coso, a due finali sale quasi a 22, quasi 25 watt sale, l'importante è bianca, se lo apri tutto, ma non serve aperto tutto, va fatto a 4 watt, capito? Se tu qui mi dici questi picchi i PEP da 8 watt non si muovono, ne mancano 8, vuol dire che non sta spingendo lui. Un po' di picchi deve dare, di picchi di modulazione, come dice Claudio, sono picchi di modulazione, però se non salgono i picchi di modulazione non c'è radio, vuol dire che non è, c'è qualcosa che non va nella radio, se non vanno i picchi, almeno i picchi devono andare, ho capito, questo sta uscendo bene come radio, questo è un baracchinetto piccolino che ho i picchi, gliel'ho portati a 18 qua, sì, gliel'ho portati a 18, da 5 non si muoveva, 4-5 gliel'ho portati a 18 su questo, ed è un baracchino di cavolo, di niente, non so se sta uscendo bene. Ciao Gavirù, un abbraccio, ciao. Oh Claudia, che dove ho fatto un po' di lavori, questo l'ho fatto 4 watt, è un baracchinetto tipo il 48 ma leggermente più piccolo, è il piccolo del 48. E gli ho fatto dei lavoretti all'interno e addirittura l'ho portato aprendo il radio e facendo un altro lavoretto che ti ho detto di non fare tu in quello là, arriva in PEP picchi di 18 picchi, non di watt, picchi da 4 watt di portata bianca e 18 di picchi, capito? Di picchi, non di watt. Gigi, non so se mi ascolti, che ho attaccato il baracchino, che non... Vabbè, no, c'è un po' di movimento strano in circolazione, meglio modulare con questo, anche se sto modulando poco. Non so se mi ascolti. Sì, sono d'accordo con te, però io ti ho detto che Gavinuccio poco fa mi ha detto che più di 8 watt non saliva. Ma l'ho detto, io l'ho detto, ma neanche in PEP, cioè in picco di modulazione, non sale niente. No, dice 8, 9 watt, allora non sta spingendo, il lavoro non è fatto bene, c'è qualcosa che non sta andando, questo gli ho detto. È giusto, è così, c'è qualcosa, però è difficile perché questa persona qua, Sabatino, è difficile, io non ho mai mandato indietro uno, mi dico la verità, ma ha sempre fatto dei lavori come si deve, a me e anche altri amici che l'ho mandato di lì. Eppure, mi sembra strano perché lavora bene, è ordinato, pulito, non resina nulla, tutto, ti dice se da fare una regolazione, te lo dice, ti telefona, ti dice tocca, aprilo, ti dice dove metterci le mani, se sono fare degli accorgimenti, delle regolazioni, te lo dice già in partenza lui cosa toccare. Sì, ma lo so perfettamente, io radio sua ne ho avuto e quindi lo so che lavora bene. Ecco perché ho detto, mi senti a Gigi, cosa ti dice, se ti deve dare qualche informazione diversa, però siccome io li ho avuti quei tipi di radio e so che spingono abbastanza, nel senso che hanno un buon modulatore, quindi vedi la modulazione che sale, ok, una volta che i watt sono regolati la modulazione sale e quello non salendo ho pensato che il lavoro fosse fatto diversamente. Non mi ha detto subito che l'ha fatto da Sabatino, però ha detto sì, capito, tutto qua. Va bene Gigi, dai, non so se mi stai ascoltando, sto andando con l'omologato, l'AN48 e microfono di tavola, ok? Questi sono 8 watt lo stesso, questa era 4 e gli ho portato su quel trimmerino che mi hai detto tu e l'ho portato a 8 watt. Positivo, dai, positivo. No, io questo l'ho fatto 4 watt, l'ho lasciato a 4 watt e però gli ho fatto i picchi di modulazione. Capito? Gli ho aumentato, gli ho dato i picchi di modulazione, i picchi che sono già più, leggermente più radio, capito? che con questi picchi così puoi se lo vorresti attaccare a qualche parte, lo puoi attaccare a qualche parte con questi 4 watt, capito? Sì, no, ecco, è questo, io no, questo c'è 8 watt fisso perché lineare no, non li attacco io a questi baracchini, non li attacco neanche agli altri, figurati agli altri, non c'ho più niente, ho venduto tutto, comunque questo c'ha 8 watt e sono fermi, 8 watt mi sta segnando il watt, metto le 8 watt e li ho regolati, non ha né picchio e né nuda, né pizzoni, capito, tutto qua, va bene, dai Gigi, ti saluto e ci sentiamo, ok? Alle prossime trasmissioni, dai, rimanga in ascolto Gigi, preferisco rimanere in ascolto, ok? Ciao Claudio, ciao. Ciao, ciao Gigi, mi ascolti bene di radio, sì? Benissimo, bene. Questo è il microfono tuo, l'MBP5 con la LAN 48, normale, omologato. Positivo, no, poi è il microfono che anche la fa uscire bene, che la spinge un po' di più, dai. No, va benissimo, dai, va più che bene, capito? Va bene, dai, anche io rimango in ascolto, c'era Gianni e niente, dai, anche io rimango, anzi chiudo per il momento e poi se ne ho voglia entro un altro pochettino, dai, salutando a tutti. Ciao Claudio, ciao Gianni, devo aspettarmi un attimino, dai. Sì, dai, anche io saluto a tutti, rimango in ascolto, dai, ciao. Gianni, Gigi. Eia, hai provato? Sì, ma non riesco a trovare il DR32 che non ci fu. Nello schema, vabbè, nella piazza non c'è. Strano, no? È strano che non ci sia. Comunque ascolta a me, quel trim l'hai girato, l'hai alzato o infatti, hai provato? Ah, vabbè, per la potenza adesso, capito, la potenza va bene. No, era strano, perché vabbè, è stata una funzionura, ma non sono capito a vedere com'era questa modifica. Invece che c'era a punteggiare questo transito per la modulazione, ma giusto per curiosità. Ma l'apparato che si deve vedere davanti, no? No, è chiuso, no? Magari, vero? Ah, questo è classico. Vabbè, comunque, quando ha girato il V13, con la portata sono saliti i watt, quello ti voglio dire. No, quello non l'ho fatto, perché lo metto sotto carico fittizio prima. No, quello che mi interessava è capire dove era stato partito. Che lì, comunque, vicino a come dici tu, nell'altro, vabbè, ne ho due, sono perfettamente uguali, quindi non ce n'è. No, ne ho uno rotto, no. Sono aperto e l'ho guardato, capito? È 9,5. Questo ti... Allora, ti dico quali sono tutti, perché qui ci sono 1, 2, 3, 4 tra tutto qui. Ascolta a me. Lo spinotto del microfono ce l'hai di fianco, giusto? È di fianco su quell'apparato lì, giusto? Sì. Vicino, apri un tappo, vicino, sotto niente, attacca, vicino al microfono, sotto in chi va, baita, dove entra lo spinotto, dove è attaccato lo spinotto, dentro, sotto. Guarda che in mezzo c'è un TR32, se riesci a leggerlo. Se non c'è allora è un modello diverso quello lì, capito? È un modello diverso. Cioè, se tu vedi il TR32 devi staccare quello lì, se lo vedi scritto, deve esserci scritto TR32. Vabbè, allora, c'è di fianco, adesso smonto per vedere perché c'è una piazzina, ma non può essere sotto proprio la piazza dove, cioè, se è nascosto non si vede, capito? Perché quello che si vede è il TR33. Poi ne altri che, vabbè, altri, no, vabbè, le altre sono TR37 e poi ce ne sono altri due, adesso non ricordo. Poi questo 32 blu è quello che manca, adesso lo smonto. Cioè smonto l'attacco microfonico, magari sotto, no? Ma non credo però, Ascolta a me, invece i trimmer per il V13 che rimane tutto, quando gli pone la bocca sopra, tutto a destra, quello c'è, il V13, V12, 14, 16, in fila ci sono? Sì, no, quelli là ci sono, già li ho visti anche, perché sto cercando uno schema attraverso internet. Sì, quelli ci sono i, vabbè, come 4, 5, 6, 7 giù. Diciamo fronte e uscita antenna, quindi ti ho visto. No, quello che non capisco è questo, e tu mi hai detto comunque trovando di un altro punto giallo, giusto? Giusto. l'altro tu c'hai il V13 che tu aumentando ti aumenti a piacere i fatti. Poi il 16 ti dà, ti dà la radio, ti cambia la radio, te la fa più, più forte, più, più squillante, più, più forte, capito? Il VR16. Ah, per la radio il VR16, vabbè, adesso me ne segno, la poi le trovo. Se ne ho voglia poi lo metto, là. E poi c'è il 14, c'è il 12 è per i fatti di, te l'ho detto, di USB, per aumentare quelli il 12, capito? Allora, adesso va a posto uno, là. Quindi abbiamo, se li confida, che questo è buono, non batto più. La LC è VR12, la MC è VR14, il 16 è il CV. Non può essere, VR16 è il CV, quindi è l'inverso. La M, vabbè, se VR è quello che viene tutto, andava e poi c'è l'FM è VR1, SSD è VR2. Lì sono che sono, poi ce n'era un altro, non riesco a vederlo perché è messo un po' male. Allora il VR1 dovrebbe regolare lo smitter in AM e FM, si regola la, lo smitter e la lancetta, attenzione. Il VR2 è CV doppia, poi c'è V3 che è lo squerce USB, si regola lo squerce, poi il VR4 è in AM lo squerce, il VR5 registra la frequenza in FM, il VR7 è potenziometro spostamento della frequenza in banda laterale, ma non toccarle mai, hai capito? Poi c'è il VR16 AM sound, recezione e trasmissione, ti aumenta un po' la trasmissione, e poi il VR14 c'è la modulazione, ce l'avevo segnato, il VR14 è la modulazione, non il VR16, il VR14. Ne varia, ma è anche perché c'è sulla piazza, c'è stampato, capito? AMC, quindi ampiezza. Vabbè, no, ma lo so, là ci sono le bobine, quelle che sono sotto le barre laterali, c'è la ricerca di trasmissione, ma quindi se li tocchi, se li trovi che l'altro o non si sente o tu sei fuori o le altre fuori, non quelli lascia lì, è meglio non toccarli male, anzi, non toccarli e basta. Sì, lì sono due cose da toccare, il VR14 che per la modulazione e il VR13 sono i VATX, le regole, però se ti devi regolare diciamo lo smitter e il VR1, sia in FM che in AM ti regola lo smitter, te lo stari a piacere ascoltandoti gli altri o se no te lo sposti tu tramite quando dai, che non vada a sbattere a fondo quando schiaccia la portante, capito? Quello poi... Allora, il VR8, quello regola lo smith in trasmissione, capito? Quando tu schiacci la portante in trasmissione, ti regola lo smith e te lo abbatti o te lo sollevi, capito? In modo che non sbatti a lago a fondo scala, capito? Ce l'hai tutti segnati, dai, uno è fatto... Sì. No, io sto cercando sempre questo TR32, non lo so. Manco sulla piazza è segnato. Boh, non lo so, allora può essere un altro modello che non ce l'ha, però è strano, perché sono tutti uguali, è un tornado, come il tornado, è preciso quello lì, capito? Può darsi che essendo a due finali non ce l'abbia, lo sai, perché ha due finali, però ti aumenta, girando sul VR14 ti aumenta di parecchio. Tu lascia perdere il TR32, basta regolare solamente il VR14, a piacere ti fai ascoltare da qualcuno, e poi infatti te le regole da quello a piacere, capito? Può essere, perché guarda, adesso ho, vabbè, mi fa anche il Galaxy, una trattina che fa il mio figlio, ne arrivo, aspetta, va, vediamo adesso i laboratori. Adesso vediamo, comunque questo TR di tutto non c'è, vabbè, comunque è così, va bene, ok, dai, mi assento un po' a vedere questa radio che si è comprata. Va bene, dai, va a andare, va a andare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie per la consulenza. Vale, buona tarde. Hola, hola. Attenzione, canale 10, viso della Sardegna, fa chiaro. sì, sì.